cos'è quest'estate. Sono le 8 e 11 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Ci troviamo per questa prima puntata di Che cos'è, anzi, ma cos'è quest'estate. In effetti è un'estate davvero particolare anche per me, che per la prima volta sono a questo microfono a quest'ora del mattino per questa trasmissione che ritorna puntuale ogni mese di agosto qui su Radio 24. Trascorreremo insieme la prossima ora e mezza cercando così di affrontare temi di attualità, di farlo con un po' più di spazio, visto che ne disponiamo fortunatamente rispetto ai giornali radio e tante altre trasmissioni un po' più a rullo di Radio 24, un po' più veloci. Ecco, qui abbiamo gli spazi per parlare, abbiamo gli spazi anche per ospitare le vostre telefonate. 800 24 0024 è come sempre il nostro numero di telefono per intervenire e quindi appunto partecipare, dirci la vostra sui temi che affronteremo. Il primo dei quali, beh, ci riporta un po' alla grande discussione delle scorse settimane, perché andremo a parlare sì di Recovery Fund, ma in particolare con un taglio che riguarda tutto ciò che ha toccato le politiche per la riduzione delle emissioni di CO2. Vi leggo così giusto un passaggio di un articolo pubblicato recentemente dall'Inchiesta. Tanti stati, dice, possono dire di avere vinto nel negoziato sul Next Generation EU. Seguono poi i dettagli, diciamo, economici. A uscire ridimensionate sono state invece le ambizioni della Commissione europea, che sull'altare del compromesso ha dovuto fare dei sacrifici. Tra tutti i piani comunitari a rimetterci è stato soprattutto il motore del Green Deal europeo, il Just Transition Fund, uno dei pilastri dell'accordo sul clima, che aveva lo scopo di convertire gli stati europei alla neutralità climatica. È stato pesantemente ridimensionato e passato dai 30 miliardi inizialmente previsti ad appena 10. E allora abbiamo discusso tanto di Recovery Fund, ma abbiamo discusso probabilmente ancora di più l'anno scorso di questo Green New Deal. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Vi presento il nostro primo ospite, con il quale cercheremo di appunto andare a vedere nel dettaglio cosa è successo. È Emanuele Bonpan, giornalista ambientale, direttore di Materia Rinnovabile. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte le spettatrici e gli spettatori. Allora Emanuele, davvero è questo, insomma, il quadro, la situazione che esce fuori? Beh, innanzitutto vanno dette alcune cose per precisare e inquadrare meglio il contesto di uno scenario economico tutt'altro che semplice. Innanzitutto il budget europeo multiennale, quello che va dal 2021 al 2027, e il Recovery Fund hanno, per mandato dell'Unione Europea, della Commissione Europea, la necessità di allocare almeno il 30% di tutte queste risorse nelle politiche di decarbonizzazione. Che siano poi queste realmente efficienti o meno, questo dipende ovviamente dagli stati come useranno i soldi. Certamente c'è stata una riduzione, come anche tu dicevi prima, i soldi allocati nel Just Transition Fund, che ricordiamo era un fondo specifico per la riconversione. Attenzione Emanuele, che ti stiamo un po' perdendo. Allora facciamo una cosa, okay. Abbiamo il traffico, sentiamo come vanno le cose sulle strade, le autostrade, e poi riprendiamo. Ma cos'è quest'estate? Emanuele Bonpan, come dicevo, giornalista ambientale e direttore di Materia Rinnovabile, già collegato con noi, ci stava un po' dicendo della situazione, diciamo, dell'area green, dei tagli o non tagli che sono stati effettuati nell'approntare il Recovery Fund a tutto ciò che era stato previsto per ridurre le emissioni e quindi, insomma, instradare l'Europa verso un cambio di passo, verso una maggiore economia circolare e sostenibilità delle sue attività. Abbiamo in collegamento nel frattempo anche Simona Bonafè, buongiorno, europarlamentare PD, membro della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, faccio concludere Bonpan, che aveva iniziato un discorso, però poi purtroppo non si sentiva bene, quindi l'abbiamo interrotto, però voglio sentire ovviamente la sua posizione. So che il giorno dopo esattamente eravate già, diciamo, in riunione, un po' sul piede di guerra, ma adesso ci dirà. Bonpan. Sì. Sì, ecco, speriamo che riusciamo adesso a sentirci adesso. Bene, l'innovazione serve anche probabilmente nelle linee telefoniche. Direi di sì. Anche allora, le nostre, no, che abbiamo spesso dei problemi, qui lo dico, qui lo nego, però vabbè. Tra l'altro sono vicino a Bolzano, quindi neanche fossi in un'area remota fuori dalle aree urbanizzate. No, dicevo appunto, sia il budget europeo multiennale, quello del 2021-2027 e l'EU Recovery Fund hanno necessità di allocare almeno il 30% delle risorse per i piani di decarbonizzazione. Ovviamente nel caso dell'EU Recovery Fund toccherà agli Stati decidere quali scelte fare. Abbiamo visto anche l'intervista a Sergio Costa che diceva proprio di allocare soldi nel Green Italian Made Italy, adesso non ricordo come si dice. Sì, Made Green in Italy, adesso poi vi leggo. Made Green in Italy. La transizione energetica. Purtroppo sono stati ridotti i soldi allocati direttamente attraverso il Just Transition Fund, che ricordiamo era un fondo per la transizione di grossi impianti energivori, ad esempio Taranto per l'Italia, per intenderci, ma soprattutto per aiutare paesi come la Polonia, che sono ancora fortemente dipendenti dal carbone, che avrebbero fatto abbondante uso di questi finanziamenti. Quindi la riduzione di questi soldi va a colpire soprattutto un paese come la Polonia. Quindi da un certo punto di vista rimane un'allocazione delle risorse per la transizione energetica e la decarbonizzazione. Diciamo, l'attenzione si sposta sui paesi membri che dovranno presentare, appunto, sappiamo l'Italia inizia adesso la discussione sul piano nazionale per impiegare i fondi del EU Recovery Fund, dovranno presentare dei piani cogenti in grado di appunto raggiungere quelli che sono gli obiettivi di riduzione delle emissioni, quindi adesso il 50-55% per l'Unione Europea al 2030. Quindi il bicchiere è sia mezzo pieno che mezzo vuoto, per riassumerla in una battuta. Bonafè, lei come la vede? Appunto, dicevo, il giorno dopo già mi ricordo c'era un convegno al quale poi lei non ha potuto partecipare, proprio perché il Parlamento Europeo e la Commissione Ambientale si sono immediatamente riuniti. Sì, la vedo anch'io un po' come Bonpan, il bicchiere sia mezzo pieno che mezzo vuoto, nel senso che indubbiamente Next Generation EU è stato un successo, ed è stato un successo anche aver stabilito un obbligo di destinare nei piani nazionali per la ripresa almeno un 30% di risorse per misure destinate ad aggredire il cambiamento climatico. Però dov'è che il bicchiere è mezzo vuoto? È mezzo vuoto nel bilancio, perché Next Generation EU, che mette a disposizione per gli stati risorse straordinarie, è stato presentato insieme al bilancio, e qui ahimè sono stati previsti grossi tagli, intanto su programmi comunitari più generali ad alto valore aggiunto europeo, penso a Health for Europe, no? Parliamo tanto di misure per la sanità. Esattamente, questo è assurdo. Ecco, sì. Appunto, infatti. Ma un non piano sono per anche la Erasmus, salute, no? Che viene depotenziato nel momento in cui c'è una pandemia. Appunto, e questo non va bene. Ma anche Erasmus, oppure lo stesso Horizon, che è il programma per la ricerca, e insomma sappiamo tutti quanto abbiamo bisogno invece adesso di investire nella ricerca. E poi, ahimè, lo ricordava bene Bonpan e l'ha detto anche lei, e sono state tagliate molto, cioè da 30 miliardi, che in verità erano più di 30, a 10 miliardi le risorse per il Just Transition Fund, che è vero che serve per accompagnare le regioni più fossili, penso alla Polonia, ma serve anche a riconvertire in maniera più sostenibile i settori più inquinanti, anche per esempio nel nostro paese. E allora, ecco, noi ci siamo, io come visto, Parlamento Europeo, fatti sentire. Certo, ho letto, ditemi voi se è corretto, che non solo, vabbè, c'è questa riduzione, però come poi dopo ad esempio il Ministro Costa diceva, è un programma tutto orientato verso il green, anche il Recovery Fund, è la visione che cambia, mi interessa poco che il fondo di transizione energetica sia stato tagliato, ma lui dice, quindi i soldi ci sono, però io leggevo anche ci sono un po' troppe poche regole per evitare di andare a finanziare comparti che siano poi dopo inquinanti. Beh, guardi che comunque i piani nazionali per la ripresa dovranno essere valutati e quindi l'obbligo, quantomeno l'obbligo di destinare almeno il 30% in risorse per il cambiamento climatico dovrà essere ben visibile per avere le risorse a disposizione. E poi non c'è dubbio che qui spetta anche all'Italia presentare dei piani che puntino proprio a una riconversione verde della nostra economia, perché guardi, il Green Deal non è materia d'ambientalisti, sia chiaro, cioè lì passa un pezzo della competitività economica anche del nostro paese, perché il nostro sistema economico già prima del coronavirus non stava crescendo o cresceva a percentuali ridotte, e quindi oggi investire nelle politiche green significa anche rendere più competitivo e più resiliente il nostro sistema per nuove emergenze. Quindi è una necessità, me lo faccia dire in questo modo forse un po' tranchant, ma io credo che questo coronavirus ci presenta, ahimè, nella tragedia anche un'opportunità, che è quella di cambiare un po' il passo su queste politiche. Io ho paura che però per la fretta, diciamo, no, di parare tutto quello che c'è da parare, in realtà si vada un po' indietro piuttosto che avanti. Ma c'è questo rischio, però ecco, bisogna evitarlo, bisogna assolutamente evitarlo, e l'Europa, devo dire che già la presidente von der Leyen si è presentata con un biglietto da visita molto chiaro, che era quello di 50 proposte legislative in 2 anni su politiche green e quello della neutralità climatica entro il 2050. E qui, se facciamo sul serio, vuol dire intervenire a 360 gradi in tutti i settori, dall'edilizia al trasporto, insomma c'è veramente un lavoro da fare. Alcune cose sono già state presentate, penso alla legge sul clima, anche lei ne ha fatto riferimento, che stiamo discutendo al Parlamento europeo, e l'altra cosa che era stata presentata era appunto il Just Transition Fund. Con questo taglio che c'è stato, appunto, il Parlamento europeo si è fatto sentire, però ecco, io penso che la direzione sia tracciata, la stessa Presidente von der Leyen, insomma, ha fatto del Green Deal il suo obiettivo di legislatura, per cui ecco, bisognerà portare fino in fondo queste politiche, anche in un momento così complicato. Ma guardi, poi sarà interessante, e andremo anche a vederle, a studiarle in profondità, i vari studi che già oggi fanno vedere che c'è una correlazione fra diffusione del virus e qualità dell'aria e qualità dell'ambiente. E quindi, insomma, è evidente che tutto questo serve anche forse evitare in futuro non solo una nuova emergenza sanitaria, ma anche un'emergenza, se vogliamo, ambientale e climatica. Sì, certo, che l'Italia già vive abbondantemente, specie in questa zona in cui siamo noi con Radio 24, quindi tutta la pianura padana. Emanuele, secondo te l'Italia lo coglie adesso, visto che tu fai il giornalista e stai in Italia, no? Quindi ci abbiamo questo indirizzo? Perché siamo un po' andivaghi, invece, a mio avviso. Come dire, il governo mostra sempre due direzioni: dall'altro c'è una componente che vede un'opportunità. Attenzione al telefono, non ti spostare. Sì, vai. Cerchiamo di sicuramente spendere anche i soldi per l'innovazione digitale, altra componente fondamentale. No, dicevo, l'Italia ha un governo che è ambivalente: da un lato ha una visione progressista in alcuni casi per le politiche di decarbonizzazione, il ministro Costa. Gli spesso delle proposte interessanti, sicuramente da valutare, però c'è anche una componente che spinge fortemente su infrastrutture classiche, pensiamo a tutte le autostrade che sono state proposte come infrastrutture strategiche per il paese, quando invece probabilmente bisognerebbe investire maggiormente in mobilità su treni, mobilità alternativa, in efficientamento degli edifici. Vedo che già a rischio, mi sembra, in Emilia Romagna lo stop al consumo di suolo in questi giorni, già lì ci dice, no? Come si pensa di ripartire. L'impianto eolico offshore che ha, come dire, aizzato moltissime persone. Quindi, come dire, mancando anche una forza ambientalista, il Partito dei Verdi purtroppo in Italia è silente, è poco rappresentato mediaticamente e anche poco peso politico. Sicuramente c'è bisogno, soprattutto da parte dei giornalisti, di tenere alta l'attenzione su queste cose, anche perché l'Europa potrebbe veramente non apprezzare la proposta del piano italiano, qualora non fosse in linea con il 30% richiesto. Tra l'altro i movimenti ambientalisti e la scienza avevano annunciato che sarebbe dovuto essere di almeno il 40% dell'allocazione del budget per raggiungere quelli che sono considerati gli scienziati gli obiettivi di decarbonizzazione. Quindi già il 30% non è sufficiente a livello europeo. L'Italia presenta un piano che non è neanche in linea con questo 30%, ecco, possiamo bene Sì, l'accordo di Parigi è sempre più lontano, Bonafede, su questo senza dubbio, sembra un po', no, irraggiungibile a questo punto. Ma vediamo, nel senso che anche la legge sul clima su cui stiamo discutendo al Parlamento europeo sta rivedendo i target proprio per arrivare a raggiungere anche gli obiettivi di Parigi, che peraltro ricordo sono obiettivi vincolanti, non è che sono, cioè se stringiamo degli accordi a livello internazionale poi dopo bisogna però rispettare. Però i limiti, no? Ce li siamo dati noi poi, quindi insomma non erano già… Sì. Cioè ci siamo dati un obiettivo bassino un po' tutti. Ecco, brava, sì, infatti dico, questa legge sul clima servirà anche a rivedere quell'obiettivo lì, perché se è vero come è vero che vogliamo arrivare alla neutralità climatica da qui al 2050, non è che è lontanissimo, mancano pochi anni e sappiamo bene che in questi pochi anni dobbiamo veramente fare interventi in tutti i settori se l'obiettivo è quello della neutralità climatica, quindi anche con la legge sul clima noi stiamo proprio rivedendo gli obiettivi per arrivare a rispettare l'accordo di Parigi. Che insomma noi abbiamo parlato tanto di emergenza coronavirus ed è giusto così perché siamo stati travolti da questa pandemia, però ecco, non bisogna dimenticare che c'è anche un'altra emergenza che è quella climatica. Non so se lei ha visto, ma però non c'è, c'è ancora adesso, io ricevo adesso, mi perdoni visto l'ultimo minutino che abbiamo. Siamo stati fermi per mesi, dice un ascoltatore, e non è cambiato niente, siamo ancora qui a raccontarcela, cioè non è ancora percepita come un'emergenza da molti o come una necessità di cambiare, perché altrimenti avremo più plastiche che pesci, più uragani che pioggerelline e così via. No, ma non solo, non so se lei ha visto i dati che arrivano, i dati del clima che arrivano, delle temperature che arrivano dall'Antartide, sono sì, ma anche dal Mediterraneo, dove costantemente c'è un grado in più del solito, insomma, quindi appunto, quindi è evidente che è cioè, l'Australia prima del coronavirus stava letteralmente bruciando, quindi è un'emergenza a tutti gli effetti, ecco perché dobbiamo assolutamente prenderne consapevolezza e agire di conseguenza. Emanuele, che diciamo? Quello che credo serva al nostro paese, che tra l'altro ha votato l'emergenza climatica, è un'accelerazione anche sul processo legislativo. Cioè, l'Italia in Costituzione non ha riferimenti né all'ambiente, né al clima, né all'acqua. E credo che la cosa urgente del lavoro legislativo che possa in mano sia proprio questo: creare un framework legale che si acceleri, spinga ad accelerare sulla transizione energetica, che spinga ad accelerare i comportamenti virtuosi dei cittadini, che spinga a sanzionare le compagnie, le azioni che non sono al contrario, noi abbiamo una bellissima legge sugli ecoreati, ma che, come dire, rendono più vincolanti per il nostro paese le azioni di decarbonizzazione, se no rischiamo veramente di non riuscire a essere all'altezza della sfida. Allora, io vi ringrazio entrambi per questo collegamento, Emanuele Bonpan, avete sentito adesso, giornalista, direttore di Materia Rinnovabile, Simona Bonafè, l'europarlamentare del PD e membro della Commissione Ambiente al Parlamento Europeo. Noi abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Ma cos'è quest'estate? In the golden rule, American history and practical man, you study him hard hoping to pass. E rientriamo con una musica quanto mai opportuna, visto che andiamo a parlare di scuola a questo punto. La scorsa settimana, come tutti ben sappiamo perché ne abbiamo sentito parlare ovunque, è stata indetta dal commissario per l'emergenza Arcuri la gara per la fornitura di fino a 1,5 milioni di banchi monouso tradizionali e poi altro 1,5 milioni di banchi di tipo più innovativo per consentire la riapertura delle scuole a settembre. Questo bando ha una scadenza, è prevista per il 30 di luglio, i contratti dovranno essere firmati entro il 7 di agosto, se non sbaglio, l'azienda che si aggiudicherà la gara poi dovrà assicurare la consegna dei banchi entro il 31 agosto. Vi ripeto le date, 30 luglio scadenza, 7 agosto la firma, 31 agosto la consegna. Già così pare complicato, Emilio Salvatorelli, presidente di Vastarredo, è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno. La sua è la più grande azienda italiana che ha forniture per le scuole. A me, appunto, io ho voluto sottolineare queste date. Poi ci sono anche i numeri, quel milione, milione e mezzo, non lo so, ho trovato cifre diverse, ma non è tanto questo. La questione è i tempi, direi. Sì, certo, e certo. Le capacità diciamo produttive che sono inferiori in Italia. La mia società, insieme ad altre società, siamo associati a Federlegno. Appunto perché in questi momenti dobbiamo avere un'unione e capire bene il da farsi. Io le dico soltanto qualcosa riferito a un solo lotto, non al milione, a 200.000 pezzi. Per fare 200.000 pezzi ci vuole 1 milione di chili di acciaio. Che lei in questo momento non ha, nel senso che lei non pensava di dover fare 200.000 pezzi, no? Lo diciamo così io, per nessuno certo. Può avere, anche perché io faccio una gara. Ci sono i competitors, quindi non è detto che io vinco la gara, solo se io lo so prima, sono da solo, allora mi posso approvvigionare di 1 milione di chili di acciaio, ma non sapendolo, quindi il giorno 10 di agosto devo andare dal fornitore di acciaio e chiedere di farmi avere 33 autotreni di materiale da lavorare, quindi non so chi al mondo possa fare questo, non in Europa, perché il ministro dice una gara europea, io non lo so, solo se io lo faccio prima, parto prima, posso riuscire a organizzarmi. Certo, se quindi vi dicono l'anno prossimo faremo una gara, allora. Sì, però 33 autotreni di acciaio, cioè solo così a vederli, sono tantissimi, 44 autotreni di pannello truciolare per fare questo lavoro, non è facile. Io ho sentito tutti i fornitori, e i fornitori in questo momento, dopo il lockdown, esatto, e prima si sono dovuti fermare, ma adesso sono pieni di lavoro, loro consegnano a 4 settimane, quindi io devo aspettare 4 settimane per ricevere il materiale. E siamo già fuori. Sì, ma io come i miei colleghi come facciamo a fare questo? Abbiamo avuto contatti con la segreteria del commissario straordinario, gli abbiamo fatto notare questo, come Federlegno, l'ha detto il presidente di Federlegno, cioè non io, però non ci hanno voluto ascoltare, quindi forse c'è anche questa cosa che scambiano la polemica, sembra che è una polemica, no, la nostra non è una polemica, noi viviamo nel mondo reale e io chiaramente quando vado, prima di fare un lavoro, sono un imprenditore, mi devo informare in maniera perfetta per rispettare gli impegni che vado ad assumere, anche perché poi ci saranno dei risarcimenti di danni se io non garantisco quella certo. Merce quel giorno, perché le scuole non le potranno aprire, e quindi che facciamo? La mia azienda sono una seconda generazione fatta da mio padre Remo Salvatorelli, c'ha 70 anni di vita, che mette in discussione questo, non va bene. Aspetti che mi dica questa cosa, sì. Che io poi ho un po' di domande sì. da farle. Sì. Diceva? Le dico un'altra cosa, nel frattempo noi non è che stiamo a guardare il cielo, noi lavoriamo con tutte le amministrazioni italiane, che non è che questo tipo di gara ha bloccato gli acquisti. E sono parallele, quindi i vari comuni italiani, il comune di Pisa, il comune di Torino, il comune di Milano, hanno fatto già gli ordini, quindi noi abbiamo un portafoglio da rispettare, perché abbiamo firmato dei contratti con queste amministrazioni, e quindi che gli diciamo no? Quindi come facciamo? Poi in 20 giorni, è troppo breve, perché certo. Questo lavoro si sviluppa in 3 fasi, l'approvvigionamento, la fabbricazione, la distribuzione. Esatto, esatto. Lì la volevo portare, perché loro vi danno 20 sì. giorni per produrli, mettiamo pure no, che per uno fare riesca tutto. Esatto, uno, per fare tutto, approvvigionarsi del materiale, produrli e poi vanno sì. consegnati entro certo. il 31 di agosto. Certo. Se non ho capito male, non vi hanno detto dove consegnarli, quindi potrebbero no. essere 200.000 no. banking con 200.000 destinazioni. Esattamente, oppure 20.000 destinazioni, oppure 20 destinazioni, quindi anche per fare questo prezzo, se io so dove va, posso calibrare meglio il prezzo. È vero che sono lotti regionali, quindi io so che va in una regione, però in una regione è un conto. Però andare a Bolzano... Esatto, sì, è così. Voi siete in Puglia, giusto? Noi siamo in Abruzzo. Siamo in Abruzzo, a Marzo, ecco, un conto dall'Abruzzo sì. partire e andare a Bolzano sì. e un conto partire e andare in Lazio, è un'altra certo. cosa. Quindi attenzione, poi lei sa bene che durante il mese di agosto, sabato e domenica, i camion grandi non possono circolare, quindi bisogna pure capire, i giorni sono ancora di meno per quanto riguarda le consegne, perché ripeto, un autotreno porta 500 banchi, la merce si porta montata nelle scuole, perché non ci fanno lavorare dentro le scuole, non possiamo lavorare dentro le scuole e fare i montaggi, quindi è chiaro che va portato al primo, secondo, terzo piano, a seconda di dove è la scuola. Quindi è una cosa che noi facciamo normalmente, ma non per tutta questa merce e così in breve tempo. Cioè si deve pianificare il lavoro. Allora, io le chiedo subito quello, sì. Lei ne abbiamo già parlato e lei l'ha sì. anche già detto, questa sì. subito il sospetto li prenderanno dalla Cina. Allora, in questo caso c'è un problema proprio del tipo di bando che si prevede che sia Italia o Europa, giusto? Ma no, il bando può è un essere bando anche libero. Cina? Ci vogliono dei documenti che le norme europee riguardanti questo tipo di prodotto. Ma lei, glielo dico, una nave dalla Cina per venire in Italia ci vuole un mese di navigazione. Quindi o queste navi sono già davanti al Golfo di Genova, a Napoli, ad Ancona. Ma sono già accreditati presso la nostra pubblica amministrazione, cioè è già un'azienda che lavora qua, perché altrimenti anche lì c'è tutto un procedimento, no? Questo di lavorare qui non lo so, però certamente loro hanno chiesto sicuramente una capacità produttiva. L'hanno cambiata questi giorni di 200.000 pezzi nei 3 anni precedenti, che chiunque, ci sono aziende che ce l'hanno, ma certamente il problema in questo caso è la tempistica, cioè chi deve fare questo lavoro devono già stare pronti con le navi, quindi sapevano prima che vincevano questa gara, cioè cerchiamo di capire, di essere corretti. Se succede è evidente, diciamo, non lo so, se succede che c'è una nave lì è evidente che erano già informati quindi, prima del bando. Qualcuno dice io faccio una scommessa, prendo una nave, la porto davanti a Genova e poi come il giorno dopo sono sicuro che vingo o sono da bando, solo. Certo. Quindi non lo so, io non so che dire, però chiaramente se ragioniamo in maniera corretta, come ho detto prima, io la merce la compro dopo che ho vinto la gara, oppure uso il mio magazzino, ma non ho il magazzino per fare 1 milione di pezzi di acciaio, c'ho un magazzino dove ho 3-4 camion di acciaio che mano a mano consumo, ma non 33 camion, sono 33 camion. No, sì, certo, ma mi è chiarissimo. Adesso, siccome qui c'è sempre il pensiero della maldicenza, leggo un altro che dice: ma di cosa si lamentano questi produttori? Voi non vi lamentate, esatto, no, voi non vi lamentate. No. Semplicemente dite: io in queste condizioni non partecipo, cioè c'ho già il mio lavoro, porto avanti il mio lavoro, faccio le cose che devo fare. Sì, noi abbiamo già detto, cioè il presidente di Federregno ha detto alla segreteria del commissario: guardate che rischiate che questa gara vada deserta da parte dei nostri associati. Poi è chiaro che posso rispondere chiunque, siamo nel mercato libero, non è che... però ripeto, in 20 giorni garantire questa richiesta, che ripeto è un'emergenza, perché certamente ci hanno detto è un'emergenza, però emergenza per emergenza io dico dobbiamo confrontarci, perché anche le leggi sugli appalti che ci sono adesso recitano un capitolo che una stazione appaltante, per esempio la Consip, prima di fare una gara deve verificare le norme tecniche che ci devono stare e devono verificare quali sono le aziende che possono fare quel lavoro, dopodiché progetta la gara e la fa nel modo che vuole, però deve tenere conto di quello che è l'esigenza sia del committente, in questo caso il Ministero della Pubblica Istruzione, ma sia quello che è la realtà italiana. Tutto qua, questo è quello, non è un lamento, è una cosa così chiara. Una constatazione, semplicemente, sì. Per dire sì. Appunto io questi requisiti non li posso... Cioè, questo è un bellissimo lavoro, perché ci dobbiamo lamentare? Ma lo vogliamo gestire insieme alla committenza e dire come possiamo farci, dobbiamo sedere attorno a un tavolo e capire bene come possiamo svilupparlo, in quanto tempo. Cioè noi vogliamo lavorare sabato, domenica, in 3 turni pure, però dopo se il materiale io non ce l'ho, come devo fare? No, questa è una cosa, certo. L'altra cosa che chiedono, come le avevo chiesto anch'io, ma qual è il problema? Il problema è che i banchi vanno fatti singoli e in molte scuole ci sono invece i banchi per 2 bambini, doppi. Esatto, e quindi, posto che non si possono tagliare a metà, perché l'idea viene carina a tutti, ma poi gli mancano anche 4 gambe, insomma, non è proprio immediato, poi non rispetta sicuramente dei requisiti di sicurezza da mettere in una scuola, una roba fatta così con la sega e 2 zampe. A caso, bisogna prendere sostituire quelli lì a 2 e farne di singoli, questa è la questione, no? Certo. Quindi una cosa teoricamente molto semplice, l'unica cosa che non si può improvvisare in 20 giorni e soprattutto prendersi la penale poi dopo. Un'altra cosa che le devo dire, questi banchi che ora ci sono, che non vanno bene, comunque c'è il problema che ogni amministrazione ha, che ci fa con questi banchi? Li deve smaltire. Allora che succede? Che nelle gare che fanno normalmente le altre amministrazioni, mentre questa gara ti dà dei punteggi se tu li ritiri, va bene, ma in così breve tempo io non posso ritirare tutti i banchi vecchi. Se invece ci fosse una gestione diversa, Bisognerebbe obbligare chi va a consegnare di ritirarsi praticamente quelli vecchi, perché l'amministrazione che ci fa con quella materiale lì? Quando spenderà per smaltire quella merce? Quello è un altro costo che è a carico della collettività. E ripeto, questo è, ecco perché bisogna confrontarsi, sedersi e parlare, perché noi possiamo pure ritirare quella merce. Chiaramente bisogna organizzare, quando si va, questa merce viene messa da parte, noi mettiamo il nuovo e prendiamo il vecchio, ma ci vuole il tempo. Sì, sì, no, questo senza dubbio. No, ma infatti sono tutta una serie di incongruenze. Sì. Cioè, perché non è uscito prima? Non lo so, mi chiedono. Non poteva uscire questo bando prima. È uscito sì, adesso. Ecco. Cioè, questa è polemica, però io dico, se non è uscito, evidentemente ci sono stati dei problemi. Va bene, cioè noi li possiamo capire. Però in 21 giorni, pare, ripeto, un lotto, io non ho parlato di tutto quanto. Certo. E poi ci sono anche delle incongruenze tecniche. La sedia con le rotelle di cui si parla, no? Sul bando ci viene chiesta una norma UNI per la certificazione. Io vado nel sito dell'UNI, metto quel numero, mi dice documento ritirato. Com'è possibile? Cosa vuol dire documento ritirato? E non c'è più quella norma, è stata cambiata. Quindi, bando, uno non sa che cosa fa riferimento? No, aspetti. Allora, come c'è scritto ritirato, sostituito da un'altra norma, va bene? Leggo questa norma che è vigente. Questa norma prevede l'uso e la certificazione di queste sedie con le rotelle per adulti. Quindi adulti, che cosa significa? Che nelle scuole non le puoi mettere. No, adulti sono da 18 tutti minorenni. Anni. Siccome il ministro ha detto che queste arredi sono per la scuola innovativa riguardante la scuola secondaria di secondo grado, cioè, deve sapere che praticamente sulla norma c'è scritta per adulti. Attenzione, nella norma c'è scritto pure, gliela posso mandare, che non si applica nelle istituzioni scolastiche questa norma. E quindi che facciamo? Non è la norma di riferimento per la scuola per quanto riguarda la certificazione di quella sedia. Certamente. L'unica norma, è così, questo lo recita il documento UNI, ufficiale. No, una serie di problemi, dai, bisogna prenderli di petto e affrontarli, perché altrimenti a scuola ci si torna con i banchi vecchi. Se c'è il confronto tra la parte appaltante e la parte che fa questo lavoro, io faccio questo lavoro da 42 anni, solo questo lavoro ho fatto nella mia vita, quindi lo so a memoria, parliamo, gliele diciamo queste cose, ne tiene conto, poi le va a verificare con l'UNI, perché l'UNI è l'ente di unificazione nazionale, cioè non è che sono io di parte, ti spiega come devi fare, e dopodiché tu lo fai in maniera perfetta quella cosa. Però se tu vuoi un certificato, e quindi che fanno? Siccome forse questo certificato non esiste, chiedono l'attestato di un preside, ma un preside mica si può prendere la responsabilità nel dichiarare che questa sedia con le rotelle... No, poveri presidi. Allora, noi ci dobbiamo salutare, perché abbiamo una pausa. Non è proprio una pausa, ma comunque dobbiamo cambiare argomento a questo punto. Dico a quelli che hanno scritto, ma perché non usano i banchi doppi? Beh, perché ci vorrebbe il doppio dei banchi, perché se metti un bambino per banco doppio bisogna raddoppiare comunque il numero dei banchi. Quindi, insomma, la cosa non se ne esce così. Emidio Salvatorelli, presidente di Vastarredo, la ringrazio davvero tanto per tutti i dettagli che ci ha dato. Grazie a tutti i radioascoltatori. Buona giornata. Settimana, venerdì, abbiamo deciso di parlare di questo argomento, avevamo in mente solo la giornata definita storica del tavolo interministeriale tra i lavoratrici e i lavoratori del settore spettacolo e i ministri Franceschini e Catalfo. Oggi abbiamo qualche novità in più, ne parliamo con Jacopo Pesiric della Rete Professionisti Spettacolo e Cultura, buongiorno. Buongiorno dottoressa, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori, allo staff tecnico, a tutti quanti. Bravo, ovviamente ha ricordato anche lo staff tecnico, perché ovviamente siete voi, certo, i tecnici di regia, assistenti, tutti quanti. No, dicevo, c'è qualche novità in più, perché ho visto che proprio ieri la ministra Catalfo, rispondendo a delle domande a un evento online del Movimento 5 Stelle, Villaggio Rousseau, le Olimpiadi delle Idee, così si chiamava, ha detto: con il prossimo decreto legge di agosto, grazie allo scostamento di 25 miliardi, una buona parte, più di metà, verterà su norme per il lavoro e ci sarà attenzione anche per i lavoratori dello spettacolo e gli stagionali del turismo, che avranno un po' più di difficoltà. Perlomeno che vi abbia citato, diciamo, mi sembra già un bel passaggio. Poi ci sono dei dettagli in più, insomma, non siete più quelli che ci fanno tanta compagnia, diciamo così. Bisogna vedere in che cosa si traduce questa bellissima frase, dottoressa. È una splendida cosa, malfidente. Siamo contenti di essere ricordati, vogliamo vedere di cosa stiamo parlando. Perché parlare si parla con facilità, fare è un po' più complicato, e noi come rete, come soggetto siamo sempre stati disponibili a incontrare le istituzioni per restituire una parte narrativa delle nostre professionalità, che è evidente che conosciamo noi in quanto le pratichiamo. Ma in quel tavolo interministeriale cosa vi avevano detto? Cosa vi avevano... Oltre allora, a ricevervi l'evento storico, va bene. Al tavolo ministeriale io ci sono tra l'altro anche stato e ho qui le mie 5 pagine di appunti che ho preso proprio in quella sede. Sono appunti che chiaramente non vi leggo, ma li ho qui. E che cosa ci hanno detto al tavolo ministeriale? Non eravamo mai stati a una sala dei bottoni, e questa sala dei bottoni abbiamo scoperto che è una sala in cui si dicono tante cose, alcune molto condivisibili, altre un po' più vaghe, ma poi non si capisce bene di che cosa stiamo parlando. Per cui è benissimo essere stati ricevuti, è un segno importante di cambiamento delle pratiche, delle prassi, della società in cui i movimenti vengono a essere ricevuti, ma poi bisogna verificare quello che accade. E quello che accade, se posso permettermi, dottoressa, è che per quanto riguarda i bonus, i famosi bonus di sostegno ai lavoratori che da febbraio sono a casa, questi bonus non sono ancora arrivati a tutti. Allora, se ancora ci sono delle persone che aspettano di ricevere 600 euro, bene, certo. Tutto, però è necessario che ci sia una risposta pratica a tutte queste cose. Dunque iniziamo a far arrivare i soldi a chi non li ha, per esempio. Oppure, adesso io non so se abbiamo fatto in tempo a mandargliela prima, questa email che avevo trovato, che ho ricevuto. Beh, gliela leggo, magari lei mi dice: no, tutto falso oppure tutto vero. Allora, lettera di una ascoltatrice alla sottoscritta. Sono una regista filmmaker freelance e durante il Covid non ho potuto lavorare. Ho provato a chiedere 600 euro, ma visto che lavoro anche part-time nella scuola, non ne avevo diritto. E questo è un capitolo, va bene. A giugno mi è stato detto dalla commercialista che potevo però accedere al contributo a fondo perduto dell'Agenzia delle Entrate se il mio fatturato di aprile 2020 fosse stato al di sotto dei 2/3 rispetto ad aprile 2019. E questo è una cosa, no, giusto? Come tutti i professionisti. Esatto. Ho fatto richiesta il 16 giugno nel sito dell'Agenzia delle Entrate e puntualmente il 25 giugno mi sono stati accreditati 1000 euro. Poi però ho saputo che una circolare del 21 luglio, quindi successiva di molto, emanata dall'Agenzia delle Entrate, entrava nel dettaglio specificando chi ne avesse diritto e chi no. E io no. E quindi mi è stato detto che avrei dovuto restituire la somma con gli interessi entro il 24 di luglio, cioè 3 giorni dopo, altrimenti avrei avuto una mora del 100%. Siamo e quindi a questo avrebbe livello? Dovuto restituirne 2.000. Esatto, lei ne ha restituiti 1.000 più 15, perché pare che gli interessi calcolati dallo Stato per questa cosa siano 15 euro. Le banche non danno questo, comunque. È così, cioè veramente allora, i dettagli, guardi, sono usciti. Io le posso dire questo. Questo sistema con il quale noi ci stiamo confrontando in maniera auto-organizzata e per la prima volta è un sistema ricco di storture. E queste storture noi non possiamo che esplorarle giorno per giorno, in quanto accadono leggi e decreti che da 5 mesi si susseguono contraddicendosi, a volte per ovvi motivi è la prima volta che c'è una pandemia con tutto quello che ne consegue, a volte proprio per lungaggini o labirinti burocratici. Quindi io su questo caso singolo non sono preparato, ma perché io fino a febbraio ero un artista, che adesso non sono più nulla, sono un disoccupato. Però di che settore? Artista di in che settore? Io sono artista della lirica. Della lirica. Professionista della lirica. Io consiglio a questa collega, perché in quanto facente parte del mondo dello spettacolo, per noi tutti è parte della famiglia, di rivolgersi a una delle sedi della nostra rete, se ci trova nel suo territorio. Poi magari se volete mandarmi via messaggio un contatto, certo. Ma insomma, queste cose noi le cerchiamo di curarle singolarmente, perché abbiamo instradato un percorso che si muove su molteplici binari, uno dei quali è il binario contrattuale, per il quale però siamo, grazie al cielo, supportati da una rete sindacale e intersindacale. Perché queste sono questioni difficilissime. Sono difficilissime anche perché, appunto, se le specifiche escono poi dopo le normative, è onestamente impossibile, se non c'hai la testa su quel mondo lì, capire come devi muoverti o cosa puoi avere e cosa no. Poi lei diceva anche ci sono persone che comunque non hanno preso neanche, cioè proprio non hanno avuto niente, quindi poi lì c'è ancora Il nodo, una situazione difficile. Prego. Certo, mi scusi se la interrompo, vorrei far brutta figura o sembrare inopportuno, ma i nodi che noi abbiamo evidenziato sono dei nodi molto precisi. Esistono nel settore della musica e dello spettacolo esiste una assoluta mancanza di chiarezza normativa, chiarezza contrattuale, chiarezza gestionale. E poi c'è anche un problema di corruzione etica, diciamo, ma questa parola non è che mi piace molto, del mondo in generale. Allora, come si fa dopo un evento traumatico come quello della pandemia a rimettere un po' di ordine? Perché il nodo è proprio che la pandemia ha dato il là a un processo a valanga, in cui per la prima volta, in maniera totalmente trasversale, professioniste e professionisti del mondo dello spettacolo, e quindi andiamo veramente a toccare una miriade di professionalità e di soggetti, si sono uniti per dire fermi tutti, così non funziona e non può andare avanti così. Sotto questo grande ombrello, dunque, di movimento dal basso, si riuniscono, come le ho detto, infinite professionalità, infinite realtà, infinite diversità e anche complessità. Molte di queste sono appunto legate a complessità economiche, i creativi per esempio, come gli scenografi, che hanno pochissimi giorni contributivi rispetto alle giornate di lavoro, come d'altronde gli artisti che poi sono in palco, perché le prove e lo studio non vengono considerate lavoro. Poi ci sono tutti i tecnici, e i tecnici, e voi lo sapete, guardi gli occhi dei suoi colleghi in questo momento, è vero o non è vero che i fonici, i luciai, gli addetti video ai concerti vengono trattati come delle pezze e lavorano 15-18 ore di seguito, spesso senza mangiare, senza bere, pagati in nero? E questo lo dobbiamo chiedere a loro, i nostri fanno un altro mestiere. E ve lo dico anche io, che ho fatto il fonico per tanti anni. Ma credo. No, ma lo so che ci figuri la dottoressa. Anche perché tutti noi abbiamo avuto degli amici che hanno fatto, no, quando uno lavora nelle radio, c'ha gli amici che poi appunto vanno a fare il concerto e così via. Che raccontano queste situazioni incredibili. Allora, queste situazioni incredibili uniscono tutti i professionisti dello spettacolo, perché tutti hanno queste situazioni qua. E le giuro che qualsiasi tipo di discorso si intavoli su qualsiasi professione, di qualsiasi professione si stia parlando, la domanda è la finale è: ma alla fine della fiera questa persona di che tutele gode? E nel mondo dello spettacolo non c'è la malattia, la maternità, la paternità, la garanzia per le date che vengono cancellate. C'è una grandissima clientela nel mondo dello spettacolo, e questa cosa è venuta fuori in maniera molto forte al tavolo interministeriale al quale abbiamo partecipato, e tutte queste persone, pur avendo diversità specifiche, hanno problemi comuni, e dunque è giusto che insieme si facciano sentire per dire fermi tutti. Ma se noi siamo la cultura, la tradizione, il bla bla bla fratelli di questo paese, perché finiamo a essere trattati così? Perché perché una persona che entra a lavorare nel mondo dello spettacolo dobbiamo, mi perdoni se salto a pie pari, ma dobbiamo assolutamente dare la linea GR24, è necessario cambiare il sistema, che questa sia Cambiare il sistema. Come professionisti dello spettacolo, l'emergenza continua, siamo dobbiamo qui, fermarci. Buon lavoro e buon TG. Grazie, Jacopo Pesiri, Rete Professionisti Spettacolo e Cultura, GR24, subito dopo torniamo. Ma cos'è quest'estate? Well, I'm changing all my strings, I'm gonna write another traveling song about all the billion highways and the cities at the break of dawn. Well, I guess the best that I can do now is pretend that I've done nothing wrong. And a dream about a train that's gonna take me back where I belong. La vera emergenza sono i migranti, dice uno, dice un altro invece la vera emergenza sono i dirigenti scolastici e un altro invece la vera emergenza è questo o quell'altro. Insomma, noi cerchiamo di cogliere le varie emergenze, fare un po' sentire quello che c'è in giro, ma questo non è una critica necessariamente al governo, ma evidenziare alcune incongruenze che ci sono e delle questioni che vanno affrontate. Insomma, se i problemi dello spettacolo non sono risolti in questa maniera, se restano fuori dei lavoratori, se ci sono delle sacche di difficoltà, bisognerà affrontarlo. Farà anche piacere magari a chi dovesse seguirci e che si occupa di queste politiche, insomma, magari potrà cogliere l'occasione. E poi ovviamente è una selezione delle emergenze che ci sono in giro, ci piacerebbe poterle affrontare tutte, ma non basterebbe certo l'ora e mezza di ma cos'è quest'estate. Va bene, a proposito di emergenze, ce n'è una grossissima, ce l'abbiamo addosso ormai da mesi, ovviamente quella della pandemia. Un po' si ferma, un po' riparte, i numeri salgono, scendono, l'Italia va meglio, la Spagna va peggio, insomma sappiamo tutti cosa sta succedendo, l'abbiamo detto nei nostri giornali radio, c'è un grave problema nella penisola balcanica, stiamo parlando di Serbia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo, per chi proviene da Romania e Bulgaria c'è l'obbligo di 14 giorni di quarantena quando si arriva in Italia, poi c'è il governo spagnolo che adesso è alle prese con quello britannico per far escludere almeno le Baleari e le Canarie dalla lista dei luoghi dai quali i viaggiatori devono sottoporsi a quarantena quando arrivano nel Regno Unito e quindi fare sì che questa misura riguardi soltanto la Spagna continentale, questo ovviamente per tutelare il turismo in Spagna. E, ieri Londra ha imposto questa quarantena come obbligo in risposta al picco di contagi che c'è in Spagna, in particolare in Catalogna. Sono inferociti gli spagnoli, sono preoccupati gli spagnoli per il turismo, sono arrabbiati anche i turisti inglesi che erano in Spagna e che adesso al rientro dovranno rispettare questi 14 giorni di quarantena. Insomma, c'è un grossissimo problema che investe la salute, e lo sappiamo, che investe anche tutto il mondo del turismo e tutti i lavoratori collegati al mondo del turismo. L'ONU era partita con un progetto specifico, Restart Tourism, questo è il primo di luglio, progetto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo all'interno delle Nazioni Unite, e noi a questo proposito vogliamo sentire un po' come va dalla direttrice della Commissione regionale Europa dell'Organizzazione Mondiale del Turismo inserita all'interno delle Nazioni Unite. Lei è Alessandra Priante, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, noi ci siamo sentiti appunto quando è partito questo tour nella trasmissione Si può fare, mi faceva piacere riprendere con lei un po' questo argomento per capire come proseguono le cose, e poi ho chiesto anche a Ondina Giacomin, che è la presidente di ABAV, l'associazione Bed and Breakfast, alloggi turistici e appartamenti del Veneto, di essere presente, di modo che abbiamo un suo sguardo, diciamo, continentale e uno più specifico su Venezia, che tra l'altro è stata una delle città che è stata interessata, no? dal programma, dalla presentazione, diciamo, del programma delle Nazioni Unite. Cominciamo da uno sguardo generale, dottoressa Priante. Allora, guardi, sì, vero, Venezia è stata la tappa conclusiva del nostro primo viaggio della, diciamo, dell'iniziativa Restart Tourism. Diciamo che non possiamo dire è andata bene o è andata male, nel senso che noi è una cosa che comunque intendiamo fare. Certo, un progetto che... Esatto, cioè le Nazioni Unite purtroppo di vocazione devono diciamo focalizzarsi su obiettivi da realizzare, per cui questo è chiaro, non è un obiettivo che si raggiunge in poco tempo, perché come ha ricordato purtroppo anche lei, la pandemia non sembra ancora terminata, nel senso ancora non si riesce a uscire da uno stato di emergenza e soprattutto ci sono dei ritorni importanti. Io stessa che vivo in Spagna, che sono rientrata in Spagna dall'Italia, mi sono ritrovata in una situazione in cui facendo il viaggio in macchina sono stata fermata dalla polizia mentre attraversavo la Catalogna, non sapendo con chiarezza diciamo quanto grave fosse la situazione, che mi hanno detto a me e a mio marito che dovevamo indossare la mascherina in macchina, cosa che non era successa neanche prima all'inizio. Quindi è chiaro che la situazione sta gettando soprattutto le persone nel panico ed è esattamente quello l'obiettivo della nostra missione, cioè quello di contrastare diciamo questo sentimento e cercare, sperando ovviamente di riuscirci, come dicevo, non nel brevissimo tempo, di restituire un pochino di fiducia. Certo. Ondina Giacomin, lì nella vostra zona, quindi Veneto e Venezia in particolare, come stanno andando le cose? Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno allora, a lei. Posso fare una fotografia proprio reale di questi giorni? Allora, la spiaggia, siccome noi siamo un'associazione che rappresentiamo tutta la regione Veneto, per cui abbiamo anche uno sguardo un po' più ampio rispetto a Venezia Centro Storico. Certo. Allora, la spiaggia, la montagna e il lago sta andando direi molto bene, perché dopo mesi di chiusura dentro a casa la gente ha anche bisogno di prendere aria, insomma di vedere delle cose, delle cose belle, il sole, la natura eccetera. Vanno molto male le città antiche, cioè dove tipo Venezia Centro Storico piuttosto che Verona eccetera eccetera. E questo perché appunto le persone, lei dice, preferiscono un po' di aria aperta e forse temono anche proprio il timore di cui ci parlava no? Prima, il timore di stare a vicino, gomito a gomito, di trovarsi in traghetto. Certo, soprattutto una Venezia che ha le calli che a volte sono strette anche 70 centimetri, 80 centimetri, per cui insomma per passare in due bisogna proprio, non dico abbracciarci o quasi. Ecco, per cui Venezia insomma è una città che da questo punto di vista soffre più di altre, insomma, ecco. Immagino, Alessandra Priante, che lo stesso accada nelle altre grandi città europee. Guardi, in realtà no. Nel senso che sicuramente diciamo Venezia, ma anche altre città, io le dico anche la stessa Madrid, ma che normalmente è completamente piena di gente. Diciamo sono colpite soprattutto nell'Europa del Sud, nell'Europa del Nord un pochino di meno, e devo dire però che in generale diciamo la tendenza al turismo cosiddetto domestico, cioè quindi a rimanere nel proprio paese, c'è perché la gente ha paura di viaggiare, banalmente ha paura di prendere un aereo, quindi non è che lo spagnolo diciamo ad esempio per andare in vacanza prende un aereo e se ne va a Parigi piuttosto che in un'altra capitale del nord, rimane qui, anzi le dirò, si prenotano per fare delle gite nei paesi limitrofi, quindi parlo dei pueblos, no? Quindi parlo di Segovia, parlo di Toledo, parlo di Avila, parlo di tutto ciò che è limitrofo, si organizzano con dei tour organizzati, anche con degli autobus, lo so che è strano perché poi magari non prendi il treno, non prendi l'aereo, però l'autobus lo prendi, e vanno nei borghi, chiamiamoli così, che sono limitrofi. Quindi è proprio la tendenza a rimanere dove si è, e come ricordava anche è una tendenza direi molto comprensibile dopo che abbiamo visto persone rimaste bloccate all'estero per mesi, no? Quindi è chiaro che uno dice però, in un caso di lockdown almeno sto nel mio paese e a casa sicuro, ci torno. Come diceva la signora, devo dire che sicuramente la tendenza a stare nel cosiddetto outdoor, no? Cioè a stare soprattutto in montagna, è molto molto alta. La montagna secondo me andrà molto meglio del mare quest'anno. Guardi, io ho dei dati, anch'io infatti dell'ENIT, quindi Ente del Turismo Nazionale Italiano, che dà una gran ripresa per la montagna. ed ha anche un prolungamento del periodo delle vacanze fino a ottobre. Tanti hanno ripreso a lavorare e lavorano d'agosto perché bisogna recuperare quello che si è perduto, specialmente nelle fabbriche, insomma, quindi si va avanti e sì, quindi c'è un po' più di sfilacciatura, diciamo, sui tempi della vacanza fino ad agosto, fino a ottobre, e campagna e montagna, come diceva lei. Mi fa amaramente sorridere il dato sulle prenotazioni straniere dal 13 luglio al 23 di agosto, che l'Enit dice migliorano, con un calo del 90% rispetto al 91,7% di 15 giorni fa. Quindi il miglioramento sta nel passare da meno 91 a meno 90. Questo è un po' il quadro, no, direi. Beh, diciamo che fa proprio sorridere, se posso, se posso intervenire. Ondina Giacomin, lo dico per gli ascoltatori, io la riconosco dalla voce, ma gli altri no. Allora, diceva, certo, fa sorridere amaramente, perché danno certo. Meno 92, diciamo quasi, meno 90. Ecco, tenete presente che, visto che parlo di Venezia, cioè la città, voglio dire, nel cuore di tutto il mondo, e la pandemia proprio lo conferma che Venezia è del mondo, perché a noi mancano tutti gli stranieri, per cui noi siamo praticamente senza turisti e abbiamo solo un turismo, diciamo, locale, che purtroppo però è un turista che viene in giornata e non prenota, certo. E a Venezia lascia i costi. C'è una foto bellissima che sta girando in internet di due seduti sotto un ponte vicino a Rialto con il fornelletto, quello con la bomboletta piccola, che si stanno facendo da mangiare. Per cui, insomma, ma non era proibitissimo questo? No. Ma tutto è proibito a Venezia, anche andare svestiti. Ecco, il problema è che l'educazione purtroppo insomma è quella che è, insomma, ecco. E i vigili, a parte per fare le multe a chi fa, a chi lavora, voglio dire, magari anche onestamente, difficilmente sono sul tutto il territorio, perché Venezia comunque è piccola ma è molto grande da fare a piedi, perciò i vigili non è che possono essere in ogni calle o in ogni dove. Alessandra Priante, allora io direi la situazione di Venezia, ma anche della Veneto, è abbastanza rappresentativa di una situazione nazionale italiana e probabilmente, come ci diceva lei, anche europea, perché in Spagna un po' sta accadendo lo stesso. Da una parte c'è l'esigenza di, diciamo, tutelare, no, posti di lavoro, ma anche direi proprio concettualmente l'idea del turismo, della scoperta, del conoscere, dell'avere uno scambio con persone che la pensano diversamente da te o vivono, esatto, diversamente da te. Dall'altra c'è l'esigenza ovviamente di salute, per cui immagino che anche voi possiate spingere, diciamo, per rassicurare, ma senza esagerare, perché, o comunque con prudenza. Ma guardi, le voglio raccontare due cose. Innanzitutto, sulle prenotazioni che lei giustamente citava prima, mi permetto di aggiungere una cosa. Un dato vero, reale, di ora, e questo non è solamente riguardo all'Europa, anche se è chiaro, in Europa è molto più evidente, è che le persone prenotano all'ultimo minuto. Cioè, il miglioramento probabilmente ci sarà, ma ci sarà per un motivo. Uno, perché moltissimi andranno in vacanza ad agosto. E due, perché si tende a fare la prenotazione all'ultimo minuto. Se lei va su qualsiasi portale, prova a fare una simulazione e si vuole prenotare le vacanze a settembre piuttosto che tra due giorni, vedrà che tra due giorni i prezzi sono molto migliori. Quindi in generale tutti si aspettano di prendere una decisione all'ultimo minuto, che in qualche modo fa un po' il matching con quello che lei osservava giustamente. Cioè, il fatto di programmarsi un viaggio molto spesso per molte persone è considerata un'attività molto sentimentalmente molto intensa, no? Tant'è che si fa da un anno all'altro, l'anno prossimo andrò nel tal posto per due settimane, ci siamo prenotati tutto, eccetera. Ecco, è cambiato proprio il paradigma, perché diventa una fuga, diventa un qualcosa del tipo molto desiderato, però con tantissimi dubbi, e quindi anche le mete scelte, le destinazioni, le iniziative che vengono in qualche modo selezionate sono completamente diverse. Magari è difficile uscire fuori da paradigmi molto standard. Io le dico, qui diciamo una decina di giorni fa c'è stata un'importante commemorazione, non so se magari ne avete avuto eco. Il presidente Sanchez, il re, ha invitato il diciamo, di grandissimi rappresentanti della politica europea, quindi è venuta Ursula von der Leyen, David Sassoli, Charles Michel, e c'era anche il mio segretario generale della NATO e soprattutto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il mio segretario generale mi ha raccontato che sostanzialmente dottor Tedros, che lo chiamano Tetros perché è sempre a dare notizie negative, ha detto: ah no, bisogna essere prudenti, che ora arriva la seconda ondata. Allora io le posso dire, il segretario generale ha detto sì, ok, però i leader europei, quando lui ha detto così, si sono dimostrati tutti abbastanza ottimisti. Quindi evidentemente ottimisti sul fatto che non arriverà una forte seconda ondata? Sul fatto che non, secondo me, non si vuole cedere completamente all'oscurantismo dell'attesa di una nuova ondata. Io quello che dico sempre e quello che diciamo sempre noi, ed è per questo che parliamo di fiducia, è che non siamo nel febbraio del 2020, siamo nel luglio del 2020. Dovunque la gente sa come comportarsi. Sa come comportarsi, sa anche cosa dire agli altri. E tutti, in particolare gli italiani, me lo dicono anche soprattutto, diciamo, gli amici italiani, si sono rivelati molto molto rispettosi delle regole. Quindi la fiducia che noi abbiamo è nel fatto che la gente ci tiene non solo a recuperare la propria salute, ma anche a rimpossessarsi della propria vita. E il turismo fa parte della nostra vita. Sì. No, stavo pensando ancora al fatto delle prenotazioni a breve termine. Penso anche che tanti siano rimasti scottati dal fatto che alcune prenotazioni sono semplicemente scomparse, nel senso che qualcuno ha ricevuto il voucher, qualcun altro il viaggio non lo farà più e basta. Qualcuno ha ricevuto indietro i soldi. Insomma, però uno dice: io compro il viaggio quando so di poterlo fare. Tra due giorni posso andare, quindi tra due giorni mi prendo il treno e vado al mare. Non lo prenoto un mese prima perché così non rischio il lockdown, guardi, magari anche. Io parlo di me. Io per esempio non so ancora dove andrò in vacanza, ma per un motivo, perché con la Spagna in queste condizioni magari io scelgo un posto di vacanza che... Poi non mi fa entrare o mi fa fare 14 giorni di quarantena, fanno gli inglesi adesso. Ascoltiamo un ascoltatore che ha chiamato Lamberto, buongiorno. Buongiorno. Lei ci vuole raccontare di una sua esperienza a Venezia, ho letto bene? Sì, esattamente, sì, chiaramente limitata da turista pure io, per cui... Anche lei di quelli mordi e fuggi, la da Vicenza non ha fatto tanta strada andare a Venezia. ma perché ho avuto la figlia che ha abitato lì, per cui Venezia, oltre alla sua bellezza, ce l'abbiamo nel cuore per altri motivi, diciamo. No, dicevo, chiaramente è un'esperienza empirica, per cui non ha nessun valore statistico, però comunque io ho notato, ci sono stato a giugno, ci sono stato a luglio, sempre in giorni feriali. A giugno era il deserto, effettivamente è vero, veramente vedere Piazza San Marco praticamente senza nessuno è stata un'esperienza dall'altro bella perché te la puoi godere e dall'altro estraniante perché ti rendi conto. Invece devo dire che a luglio, ma le parlo di una settimana fa in un giorno feriale, non dico pieno di gente come sarebbe stato a maggio, ecco, mettiamola così, non un luglio pieno e tanti stranieri. Ma tanti, chiaramente europei, francesi, tedeschi o austriaci, insomma comunque dell'accento tedesco, e non dico la maggioranza, ma eravamo 50-50 fra italiani e stranieri, per cui per carità, forse morti e fuggi anche loro, forse anche gente che non si ferma più di tanto, magari dorme fuori, adesso questo ovviamente non lo so, però posso dire che a livello di esperienza tedeschi, francesi... Non tedeschi sono francesi, mancati, li ha visti no. Comunque. Sì, parecchi anche, sì, parecchi. Parecchi, benissimo, grazie. Niente, sì, ma... Grazie della testimonianza, buon ascolto e allora buone prossime visite, diciamo così, a Venezia, lei che ce l'ha vicina. Ondina Giacomin, allora il nostro ascoltatore dice comunque gli stranieri sono venuti, lei ci diceva però comunque sono un po' più veloci, ecco, non si fermano. Io le do un dato che è inequivocabile. Allora, Venezia lavora con le navi e con il turismo straniero. L'aeroporto di Venezia l'anno scorso ha fatto 2,5 milioni a luglio e quest'anno fa 300.000 arrivi. Lei faccia lei la proporzione e vede quanti ne va. Mancano. Sì. Esatto, quanti ne mancano. Noi però come ABBA stiamo facendo delle cose come associazione proprio per aiutare i nostri associati e assieme alla Unipolsai abbiamo una polizza assicurativa. Ho visto, bellissima. Chiudiamo su questa. €5, ecco. che costa 5 euro a persona per tutta la durata della vacanza, l'ospite è assicurato per 90 giorni dal giorno che fa il check-in, ha una diaria di 70 euro al giorno, un rimborso fino a 3.000 euro e un medico che lo segue per 3 mesi fino a che c'è la malattia. Per cui dove questo signore o signora prende il Covid è assicurato comunque per 90 giorni. Cioè, se dovesse prendere il Covid durante la vacanza che fa presso una delle vostre strutture è assicurato? No, ma la può prendere in qualunque posto, perché sapere dove uno prende il Covid è impossibile, no? Per cui io, cioè, se uno si ammala mentre lì, quindi? Ma anche dopo 90 giorni, lui è assicurato da oggi che fa il check-in fino a 90 giorni. Bah, mi sembra una proposta da valutare, davvero. Alessandra Priante, magari anche voi potete tenerne conto, magari ne era già al corrente in realtà. Ci salutiamo però su questo, non so, la conosceva? No, non la conoscevo e devo dire sicuramente questo è uno dei grandi temi su cui si dibatterà in futuro e l'unica cosa che mi posso permettere di dire è che questo rende veramente meraviglioso il turismo e che, numero uno, il settore privato in questo periodo ha dimostrato, secondo me, una forza e una creatività incredibile, per cui un plauso a tutti e veramente un grandissimo augurio ad andare avanti. E poi, soprattutto, devo dire, l'Italia continua a essere sempre una delle mete più belle del mondo. Dai, va bene, anche lei comunque in Spagna non se la passa male, non ha avuto una pessima destinazione per il suo lavoro. Alessandra Priante, Organizzazione Mondiale del Turismo, Ondina Giacomin, presidente di ABAV Veneto. Io voglio ringraziare Miriam Lucchetti e Danilo Di Trani in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto. Ci ritroviamo domani alle 8 dopo GR24.